dolce amore, o frode di cuore, fiera fedeltà, fiera fedeltà. In tuo sorriso bendice amore, bendice amore, o frode di cuore, fiera fedeltà, fiera fedeltà. E se gli prega, pregando lega, pregando lega, lega. Dintro l'assiso bendice amore, con frode core fiera beltà. E se gli prega, pregando lega, pregando lega la crudeltà, pregando lega la crudeltà. Di quel nemico trionferà, se lusinghiera non più sincera, dando l'assalto con cuore di salto, che fingerà che fingerà con cuore di salto, che fingerà. Intro assiso bendice amore, bendice amore, con frode core, fiera beltà, fiera beltà. Intro assiso bendice amore, con frode core, fiera beltà, fiera beltà. E se gli prega, pregando lega, pregando lega, lega la crudeltà. Intro l'assiso bendice amore, con frode core fiera beltà. E se gli prega, pregando lega, pregando lega la crudeltà, pregando lega la crudeltà.